Benissimo, allora io direi che possiamo iniziare questa nostra serata, il nostro incontro. Con noi questa sera sono Michela Ponzani, l'autrice del libro che verrà presentato, Processo alla Resistenza, l'eredità della guerra partigiana nella Repubblica dal 1945 al 2022, pubblicato da Einaudi quest'anno, anzi l'anno passato, nel 2023, quindi siamo molto contenti di conoscere l'autrice, che è docente all'Università Tor Vergata, e di averla qui con noi. È un grande onore anche poter affrontare direttamente con lei dei argomenti così delicati, una parte della storia che continua a essere molto viva anche nel presente e molto condizionante. Saluto anche Hannes Obermeier, collega, ex collega e comunque con il quale abbiamo anche un legame annoso che ci ripete e che ci accompagna nelle nostre presentazioni, nei nostri dibattiti di storia, quindi lo ringrazio della sua presenza, del fatto che ci aiuti come biblioteca ad offrire sempre delle nuove occasioni di riflessione e di approfondimento. Ringrazio anche l'AMPI, il Circolo Culturale, qui rappresentato da Guido Margheri. Ricordo che siamo anche in diretta Facebook, quindi abbiamo anche la possibilità di portare oltre il nostro messaggio questa sera, il messaggio di una biblioteca che da sempre, da questi 20 anni di vita, si attiva e si propone per organizzare sempre questi incontri, approfondire delle tematiche, in particolare la storia è una di quelle che sta più a cuore nella nostra attività. Siccome questo è il periodo in cui vogliamo ricordare e commemorare la Shoah, il giorno 27 gennaio, appunto il giorno della giornata della memoria, la biblioteca come ogni anno organizza degli eventi e in particolare anche il prossimo sarà il 24 gennaio dedicato alle dittature di confine, la presentazione appunto di questo libro con Gardumi, con Paola Bernardi, Federico Steinhaus alle ore 17:30 sempre in questa sala il 24 gennaio. E poi, per chi si fosse incuriosito, la prossima settimana, il 16 di gennaio, ci sarà con noi l'architetto Lucchin che ci presenterà la quadratura di Heidegger e quindi, partendo dal quadro che trovate esposto fuori nel foyer, si parlerà di neuroscienze e di connessioni. Comunque, ritorniamo al nostro argomento, ringrazio ancora i nostri ospiti, cedo la parola al presidente del Circolo Culturale della sezione AMPI Alto Adige e vi auguro una buona serata e una piacevole ripresa, soprattutto un buon 2024. Grazie. Bene, grazie intanto a Michela Ponzani per essere venuta a Bolzano, lei ama comunque la montagna, per cui tutto sommato è contenta di essere venuta, ma grazie ad Hannes Obermeier, grazie alla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, con la quale come al solito riusciamo a organizzare questo tipo di eventi. Quest'anno, come sapete, questo evento è l'anteprima di tutte le iniziative che verranno intraprese per il Giorno della Memoria all'interno del Remember Festival che ormai da diversi anni riusciamo a mettere in piedi come rete di associazioni. Le iniziative verranno presentate domani in comune con una conferenza stampa e il motivo per cui abbiamo voluto costruire quest'anno una serie di eventi legati non solo all'elemento della deportazione, all'elemento della Shoah, delle deportazioni politiche, ma abbiamo voluto costruire un evento in cui il filo tra ciò che è successo prima, ciò che è successo durante e ciò che è successo dopo fosse evidenziato. Non è la prima volta che lo facciamo anche in relazione a cose che sono avvenute. Il libro di Michela Ponzani, come poi sentirete dal dialogo, è particolarmente importante perché rappresenta un tentativo intanto di mettere in discussione alcuni luoghi comuni che l'uso politico della storia in quest'ultimo periodo sta pericolosamente mettendo in giro. E invece il libro rappresenta un elemento di verità storica che ci aiuta a fare un passo avanti. Ma poi si collega con alcuni avvenimenti che sono ancora scomodi nella nostra realtà in Trentino Alto Adige. Noi abbiamo presentato il libro di Mimmo Franzinelli e di Nicola Graziano sui partigiani reclusi, che si chiama appunto Odissea Partigiana, sui partigiani reclusi nel manicomio di Aversa. Abbiamo presentato il libro di Mario Carrozzini, che è stato uno dei partigiani perseguitati con la falsa accusa di essere una spia, in alcuni processi molto seri a Trento, e non è stato l'unico. In Alto Adige, sui Tirol, grazie a un coraggioso editore, Alfa Beta, è stato edito, ringrazio Forcato per averlo regalato, ce l'avevo già nello zainetto, ma va bene così, così ne risparmio una copia io, il caso del partigiano Pircher. È stato ristampato dopo le grandi polemiche degli anni 70, ma il punto è che quei partigiani dell'Andreas Hoferpund, che sono stati processati e che sono stati etichettati da diversi ambienti della nostra politici della nostra provincia, inclusi alcuni che stanno per andare al governo, purtroppo, permettetemi il purtroppo, e cioè che si trattava di ladri di galline, in realtà questi partigiani non sono ancora stati riabilitati. Pircher è stato graziato, altri si sono tenuti i loro anni di galera e sostanzialmente lo stesso Egarter, quando viene commemorato, è imbarazzante per gran parte della nostra società, senza distinzione di gruppo linguistico. Lo sono anche i partigiani, molte donne, molti uomini che hanno condotto la resistenza clandestina col Comitato di Solidarietà nei confronti del Lager, e quindi questa iniziativa non è un fungo nato in un altro posto, ma in realtà parla di meccanismi quotidiani che sono e hanno funzionato anche tra di noi. E serve per capire quanto quel patrimonio di ideali, di valori, non solo sia ancora attuale nella sua scomodità, ma quanto sia necessario riproporlo oggi, non solo dal punto di vista della memoria o di una retorica delle commemorazioni, ma quanto sia necessario riproporlo come anticorpo a parte di una società che si avvia a vivere delle sfide molto importanti. Ha fatto bene Valeria Trevisan a fare gli auguri di buon anno. L'anno, come sapete, basta guardare il mondo intorno a noi, non è cominciato benissimo, ma una fiammella di speranza è rappresentato da tanti anticorpi, e tra gli anticorpi c'è questo libro di Michela Ponzani. Hannes Obermaier non ha bisogno di presentazioni, ma vorrei sottolineare come sia stato protagonista di due operazioni importanti per la nostra città: la rivisitazione dei monumenti fascisti secondo la logica di aggiungere e non rimuovere, e la prima serie di Stolperstein. E sono contento di potervi dire che tra le iniziative di questo giorno della memoria, finalmente il 27 gennaio saranno inaugurate una nuova serie di Stolperstein dedicate ai 7 partigiani del Comitato di Liberazione Nazionale che furono deportati e morirono a Mauthausen e Gusen. E questo passo ulteriore non ci sarebbe stato senza l'impegno di Hannes, e quindi era l'uomo giusto per fare questo tipo di dialogo. Basta, la parola a voi. Hannes. Beh, soprattutto non c'è necessità di presentare Michela Ponzani, ma comunque in ogni caso qualche dato essenziale è sempre utile. La conoscete tutti da Rai Storia, immagino, come ottima conduttrice di interventi storiografici, di divulgazione, che è una grande arte. e che noi ci siamo, cioè ci diamo del tu, e cioè ho l'onore di poter usare il tu, che è un'operazione mai retorica, no? Quello vorrei sottolineare soprattutto nel modo che tu lo fai, non solamente attraverso la produzione accademica, cioè il libro, ma appunto anche il discorso pubblico attraverso la TV. Michela Ponzani insegna a Tor Vergata, all'Università di Tor Vergata, e è autrice di tante monografie fondamentali sul tema della resistenza, sul tema della storia contemporanea italiana, sul tema della forza femminile anche all'interno di ogni atto esistenziale, che è un tema che magari poi riusciamo a approfondire. È stata borsista dell'Istituto Einaudi, Visiting Fellow del Remark Institute dell'Università di New York, che ricordiamo è quell'istituto di storia europea in America, fondato da niente meno che Tony Judd, cioè il grande Tony Judd, no, recentemente scomparso. E comunque una figura di primo piano, cioè Michela, parlo di Michela, di primo piano del dibattito pubblico italiano, tant'è che subito dopo questo nostro breve dialogo tu sarai già subito impegnata in un dibattito televisivo che verrà registrato a Bolzano, e con questo vorrei subito anche affrontare diciamo il primo nocciolo di questa serata. Cioè non possiamo non parlare oggi di H. Larenzia, no? Cioè, perché questo il libro ne spiega, penso, tante concause. Un tuo giudizio così anche breve, anche veloce su quello che è successo lì, che peraltro sappiamo che succede ogni anno, ma quest'anno è assunto di più che altre volte all'attenzione pubblica, anche perché la destra è al governo e non ha preso le distanze nel modo dovuto. Cioè, un tuo giudizio complessivo su come sia possibile che in un ordinamento democratico della Repubblica Italiana queste manifestazioni platealmente fasciste o neofasciste o revisioniste siano possibili? Allora, grazie Gesù, sì. Grazie anzitutto per l'invito, io sono molto, molto contenta di essere qui questa sera, grazie per le parole che avete speso finora e per la presentazione così calorosa. Dunque, io cerco di dare una risposta che non sia retorica e diciamo al di là di quello che sta circolando nel dibattito in questi giorni rispetto a un fatto che comunque è un fatto molto grave. Grave che ci sia un raduno neofascista, dichiaratamente di stampo neofascista, di ispirazione neofascista, in una repubblica democratica che nasce da una esperienza storica come l'antifascismo. Al di là delle polemiche sulla Costituzione che abbiamo sentito, ascoltato nei mesi scorsi, il fatto che la Costituzione non contenga la parola antifascista e che quindi non lo sia nella sua essenza, credo che, come ho dichiarato più volte, l'attuale governo, che è espressione diretta di quella storia politica, o meglio, diretta e indiretta, perché chiaramente gli esponenti della classe dirigente attuale affondano le proprie radici in quell'esperienza storica, e sto parlando del Movimento Sociale Italiano. Però l'attuale esponente della maggioranza di governo, la nostra Presidente del Consiglio, viene da un'esperienza storica che con quei rigurgiti di neofascismo dovrebbe aver fatto i conti, cioè dovrebbe aver sciacquato nelle acque di Fiuggi quello che è il neofascismo. Evidentemente c'è una difficoltà molto forte, però di solito quando mi fanno questa domanda, se queste manifestazioni siano un po' la spia di un ritorno del fascismo in Italia, se ci sia davvero il rischio del ritorno del fascismo in Italia. Io sorprendo tutti dicendo che secondo me questo rischio non esiste. Non esiste perché il fascismo come esperienza storica è morto e sepolto nel 1945. La Repubblica è nata dall'antifascismo, ha mostrato i suoi anticorpi, è una Repubblica democratica forte, nonostante esistano dei gruppi che siano contrari alla democrazia parlamentare. Gruppi come quelli che manifestano ad Acca Larenzia sono dichiaratamente contrari alla democrazia parlamentare, la vorrebbero abbattere, si rifanno al culto della piazza, al culto del capo carismatico, sono per l'uomo forte, non certo per una democrazia in cui esistono pesi e contrappesi. Dovremmo forse cercare di trovare delle parole nuove che non siano fascismo e antifascismo per leggere un fenomeno che è sotto i nostri occhi, ma che facciamo molta fatica ad analizzare, che è quello della crisi della nostra democrazia. Tutte le democrazie in Occidente, non solo in Italia, sono di fatto in crisi. I richiami all'uomo forte, il richiamo al sovranismo, l'idea che la democrazia parlamentare sia corrotta e fragile, quindi da abbattere, sono idee che circolano da un bel po' di tempo. E quindi, secondo me, dovremmo forse riflettere più su questo. Dopodiché, certo, sarebbe necessaria una chiara presa di distanza e una parola molto semplice, visto che comunque la Presidente del Consiglio dei Ministri è la Presidente di un Paese che è una Repubblica democratica e antifascista. Grazie Michela, e aggiungiamo anche che la procura indaga, no? Per fortuna, perché le leggi ci sono e devono essere applicate. Però questo tema, questa attualità così ingombrante o diciamo così irritante, ci riconduce al tema del libro tuo proprio, perché questo libro, Processo alla Resistenza, è straordinariamente originale, nel senso che per la prima volta, per quanto io vedo gli studi sulla resistenza da Claudio Pavone in poi, affronta quella stagione di aperta delegittimazione della resistenza che si apre subito dopo il 45 tramite i processi, cioè tramite processi fatti peraltro da quadri, da questi quadri non defascistizzati a fondo, no? Nei quali sia nell'apparato giudiziale sia in quello poliziesco rientrano non dalla finestra ma dalla porta gli stessi funzionari di ante 45, e quella stagione è questo il nucleo di questo libro, come la Repubblica del 45, del 46, poi ovviamente con le prime elezioni col referendum antimonarchico, nasce con questa ambiguità di fondo, con questa ambivalenza di fondo, e forse lì c'è uno dei semi, diciamo, di queste ambiguità di cui facciamo le spese anche oggi. E mi viene da chiedere, se questa diciamo, è la domanda che vuoi porti, è stato questa stagione di revisione dell'antifascismo, della delegittimazione proprio forte, no, dei protagonisti che hanno combattuto sia contro il fascismo sia contro il nazismo. Il caso Pirchen è un esempio che ha ricordato Guido poc'anzi. Non sia stato in fondo anche un processo alla sovversione, alla disobbedienza? Il tuo primo capitolo mi sembra è bellissimo, che apre col tema della disobbedienza civile, no? Cioè il nucleo dell'atto resistenziale è una disobbedienza, cioè il per dirla con Marcuse, no, the great refusal, no, cioè di non cedere, no, cioè di prendere in mano la propria storia in nome della libertà. Cioè in questi processi dal 45 al 48 più o meno, no, viene anche fatto il processo a questo movimento dal basso, cioè a persone che prendono in mano la loro storia, uomini e donne, e che devono essere riportate nell'alveo del disciplinamento sociale, cioè un grande atto di disciplinamento sociale anche. Allora, hai citato la parola chiave, disobbedienza, perché per citare un altro grande autore che alla Resistenza partecipa e ne scrive tanto, Italo Calvino, la Resistenza cos'è? È un atto di disobbedienza radicale di una generazione, che è una generazione nata e cresciuta nel culto dell'obbedienza. È la generazione dei nati e cresciuti dentro il regime fascista, che decide a un certo punto di prendere le armi, di dare una risposta forte e risoluta al regime, e che rompe per fare questa scelta anche con l'antifascismo della prima ora, anche con l'antifascismo delle origini, per capirci, l'antifascismo dei fuoriusciti, di quelli mandati al carcere o al confino, che hanno manifestato chiaramente, pagando un prezzo molto alto, la loro opposizione al regime, ma che non hanno fatto la scelta delle armi, perché la scelta delle armi, cioè quello che porta a costituire le formazioni partigiane, è una scelta che arriva soltanto con l'irrompere della guerra in casa. Questa generazione di antifascisti della seconda ora, quindi la generazione dei più giovani, quelli che poi vanno in montagna e decidono di combattere in maniera forte, a viso aperto, contro, non solo contro l'occupante tedesco dopo l'8 settembre del 43, ma anche contro il fascismo, cioè contro un paese che al fascismo ha dato origine, che ha permesso a Mussolini di andare al potere nel 1922. Prima citavi Claudio Pavone. Claudio Pavone, quando parlava appunto di questi anni, degli anni 40, della Resistenza, si riferiva a una guerra civile di lungo periodo, cioè arriva la resa dei conti l'8 settembre del 43 di una guerra civile che è in atto in Italia praticamente dal primo dopoguerra e che ha portato all'avvento del fascismo. E per citare un'altra grande protagonista, stavolta citiamo una donna, Teresa Mattei, che è stata la più giovane fra le elette, le 21 elette all'Assemblea Costituente, partigiana combattente nei GAP, nei gruppi d'azione patriottica, che viene mandata nel carcere di Via Tasso, dove viene sottoposta a tortura da parte del capitano delle SS Priebke, e che poi negli anni 90 verrà chiamata a testimoniare al processo Priebke, raccontando quello che era stato il trattamento riservato alle giovanissime partigiane combattenti finite sotto tortura. E beh, Teresa Mattei dice che nella disobbedienza c'è un valore molto più alto che nell'obbedienza. Noi siamo diventati cittadini e cittadine, riferendosi alle donne che nel 46 finalmente hanno il diritto di votare, di essere elette, proprio perché abbiamo disobbedito. E con quell'atto di disobbedienza noi ci siamo assunti una responsabilità. Questa è la seconda parola chiave per descrivere la Resistenza: disobbedienza e responsabilità. E lo dico rispetto al dibattito pubblico che ancora circola quando si parla di Resistenza, quando si tende a dire che i partigiani sarebbero stati degli irresponsabili che avevano voglia di giocare alla guerra e che non si ponevano la responsabilità di chi poteva andarci di mezzo, non si ponevano la responsabilità di azioni di rappresaglia, di ritorsione violenta nei confronti dei civili. Se lo volevano e come questo problema? Questo è un dramma di coscienza che quella generazione affronta, ed è un dramma di coscienza di lungo periodo che resta come una ferita in quel momento, nel momento in cui si deve agire, e si deve agire perché si è in guerra e perché c'è la necessità di dare una risposta che è soprattutto militare, perché noi in questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Quando parliamo di Resistenza, noi parliamo di un fenomeno che ha avuto una grande rilevanza politica nella storia del nostro paese, perché grazie alla Resistenza noi abbiamo avuto la possibilità di eleggere i membri dell'Assemblea Costituente, di scrivere una Costituzione che non è stata imposta, è stata eletta, i rappresentanti che l'hanno scritta sono stati eletti da noi italiani, e non come è accaduto in Germania, non come è accaduto in altri paesi sconfitti. Noi ci siamo seduti al tavolo delle trattative di pace di Parigi come una nazione co-belligerante, non solo come una nazione sconfitta, per quel tributo di sangue che abbiamo dato con la guerra partigiana, ma la resistenza è stata soprattutto un fatto militare. Senza le armi non sarebbe stato possibile. Certo, tu poni fortemente il tema della moralità in questo senso, no? Cioè dell'etica della resistenza, chiamiamolo così, no? Cioè in termini kantiani, per così dire, no? Cioè, questo è uno delle pagine più dense, penso, cioè, dove tu affronti proprio questa questione di un conflitto, poi anche di una moralità individuale, autonoma, che ogni partigiano, ogni partigiana si poneva o si doveva porre dinanzi all'uso della violenza, di uccidere, diciamo, gli occupanti, i fascisti, i nazisti, e da cui nascono peraltro i più bei libri della letteratura italiana del dopoguerra. Cioè le pagine di un pavese, tanto per citarne una, no? Cioè sono piene del tema della moralità, cioè di questo struggimento anche interiore, no? Cioè in quello di agire con violenza per creare, per superare il male, no? Cioè, questa, questa contraddizione di fondo, o non è una contraddizione, cioè è il dramma della resistenza. Il dramma. È il dramma della resistenza. È uno strappo nell'intimo della propria coscienza. Decidere di sparare ad un uomo e vederselo morire davanti, lo dicono tutti i protagonisti e tutte le protagoniste, è un dramma di coscienza. Non è una cosa che si fa a cuor leggero, bisogna forzarsi all'uso della violenza. I partigiani che partecipano all'azione di Via Rasella, che è una delle azioni militari più importanti non solo in Italia ma in tutta l'Europa occupata dalle truppe naziste, affrontano una lunga fase di reclutamento e di formazione prima di entrare nei GAP, che sono i reparti scelti della resistenza, cioè i reparti, per capirci, che operano nelle città occupate e operano in una maniera diversa rispetto alle formazioni di montagna, perché nelle città che sono dominate dal nemico bisogna nascondersi, bisogna colpire e poi nascondersi, bisogna agire per primi, attaccare prima di essere attaccati, reggere una grande tensione morale, molto spesso colpire da soli, in azioni che vengono definite di terrorismo urbano dai fascisti e dai nazisti. Questi giovani vengono addestrati, vengono scelti, vengono reclutati. In questa fase, chiamiamola di addestramento, che non è solo militare, c'è anche una educazione di tipo morale. Superare l'ultimo scoglio, superare il dramma di coscienza, decidere che non si può cedere al ricatto delle ritorsioni e delle rappresaglie, pur conservando e tenendo ben presente l'obbligo morale di difendere le popolazioni civili dal rischio delle rappresaglie, ma non si può cedere a quel ricatto perché altrimenti questo significa rinunciare a fare la guerra partigiana, e però decidere di fare il salto nonostante tutto. Ci sono delle pagine davvero struggenti, come tu dici, di molti protagonisti di quella stagione, che ci descrivono tutto il dramma di coscienza, che è un dramma che noi dovremmo sempre tener presente quando affrontiamo questa pagina della nostra storia, che è stata una pagina dolorosissima, e dovremmo farlo proprio perché forse è giunto il momento di parlare in maniera antiretorica della resistenza, senza farne un monumento cristallizzato, un monumento celebrativo, perché poi i monumenti rischiano di rimanere muti e di rimanere anche isolati se non c'è la possibilità di arrivare al cuore, di sentire davvero che cosa i protagonisti di quella stagione, che tra l'altro erano giovanissimi, hanno vissuto. Quindi credo che sia davvero essenziale affrontare questo nodo della moralità, che poi è il nodo che per primo Pavone, Claudio Pavone, portò all'attenzione della storiografia. Certo. E una delle domande che spessissimo venivano rivolte a proprio Rosario Bentivegna, no? Cioè il protagonista di Via Rasella, col quale peraltro tu hai avuto modo anche di affrontare, cioè di scrivere un libro addirittura, cioè Rosario Bentivegna, e veniamo direttamente a Via Rasella, che è un elemento chiave che è praticamente legato al nostro territorio, no? con il Polizeiregiment Bozen, poi inserito nelle SS, che subisce l'attentato in Via Rasella, appunto a Roma, e da cui scaturisce poi la rappresaglia comandata da Kappler, da Priebke, peraltro Priebke, anche Priebke è legato a doppio filo a questo territorio, perché la sua fuga attraverso la Red Line, la famigerata Red Line, come tanti altri criminali di guerra nazisti, avviene attraverso l'Alto Adige, attraverso Vipiteno in questo caso. Lui si rifugia da un parroco, perché sappiamo tutti che la Chiesa Cattolica era parte attiva nel nascondere, nel proteggere, o certe frange della Chiesa Cattolica, i criminali nazisti in fuga dopo il 45, no? Anche Eichmann, anche Mengele passano per questo territorio. Ma Via Rasella, appunto, Via Rasella, sul quale proprio in Alto Adige, su Tirolo, per lunghi decenni e tuttora, e non è colpa di uno come la Russa, che ha chiamato il Polizeiregiment una banda musicale, no? Ma è colpa nostra. Abbiamo un memoriale al cimitero militare di San Giacomo, che parla di un non so come chiama, un attacco proditorio, un heimtückischer Anschlag, cioè mettendo in dubbio, no, la legittimità dell'azione resistenziale. Pertanto è una narrazione che tutti ci ha accompagnato per tanti anni e che è difficile da smantellare. E dici, inquadraci tu per favore sinteticamente che cosa rappresenta Via Rasella, e Via ovviamente Rasella, forse Ardeatine, no? Cioè, perché è un binomio, no? Quest'anno è l'ottantesimo, sì, è l'ottantesimo, sì, certo, della strage delle fosse Ardeatine, marzo 44, no? È il 24 marzo del 1944, quando appunto per ritorsione, io non la chiamo mai rappresaglia, la definisco ritorsione, una ritorsione vigliacca e criminale nei confronti di un'azione partigiana messa a punto da 12 GAP appartenenti ai GAP centrali di Roma in Via Rasella il 23 marzo del 44. La data non viene scelta a caso, perché è il giorno dell'anniversario dei fasci di combattimento del 19, e quindi tutte le alte schiere, gerarchie della Repubblica Sociale di stanza a Roma in quel momento, così come i rappresentanti del comando delle SS di Roma, sono acquartierati a Via Veneto, che è poco distante da Via Rasella, dove stanno celebrando l'anniversario dei fasci di combattimento. Da notare che qualche giorno prima di quell'azione, il 10 marzo del 44, in un'altra via centrale di Roma, Via Tomacelli, un gruppo di gappisti aveva attaccato un reparto della Guardia Nazionale Repubblicana che sfilava dal Teatro Adriano, dove c'era stata una commemorazione di Giuseppe Mazzini, perché poi il fascismo riprendeva molto i miti del Risorgimento, sentendosi erede di quell'esperienza storica. C'era stato questo attacco di gappisti ad un gruppo della Guardia Nazionale Repubblicana, addirittura con lancio di bombe a mano in pieno giorno, un'azione davvero eclatante, eppure nessuna azione di rappresaglia era stata, nessuna misura di rappresaglia era stata presa. Roma era una città dove lo stesso Kappler aveva contato una media di 8 attacchi militari al giorno da parte delle formazioni partigiane, non solo nel centro di Roma ma in tutti i quartieri, anche periferici, della capitale. Questo non vuol dire che i gappisti non si aspettassero una risposta, ma certamente una ritorsione come quella che viene messa a punto il giorno dopo via Rasella qualcosa che nessuno si aspetta e qualcosa che nessuno sa, perché la strage viene messa a punto all'alba del 24 marzo del 1944, in meno di 24 ore, nella massima fretta e nella massima segretezza, questo lo vuole espressamente Kappler, per evitare che la città di Roma possa esplodere, possa insorgere. Immaginate che cosa sarebbe accaduto se una città ribelle come Roma, che aveva dato filo da torcere a Kappler per diversi mesi, avesse avuto notizia di 335 ostaggi che senza alcuna condanna da parte di nessun tribunale stavano per essere massacrati in alcune cave di pozzolana abbandonate lungo la via Ardeatina, che all'epoca era una via periferica della capitale. La città sarebbe insorta. Quindi accade questo. I GAP mettono a punto questa azione contro una colonna di 162 uomini dell'undicesima compagnia del terzo battaglione dell'SS Polizeiregiment Bozen, come tu hai ricordato, quindi non una banda musicale né quattro vigili urbani che gironzolavano in giro diciamo per la città. L'azione riesce perfettamente dal punto di vista militare. La colonna viene sventrata, viene colpita in pieno da un carrettino che esplode, in cui sono stati caricati 18 kg di tritolo con una miccia innescata a 4 secondi. Quindi è un'azione molto rischiosa e anche molto coraggiosa, che viene studiata nel minimo dettaglio a cronometro da parte di questi 12 ragazzi, per mesi viene studiata. È un'azione militarmente importante, una delle azioni militari più importanti della resistenza in Europa, non soltanto in Italia. Per ritorsione a queste 33 vittime dei Bozen si scatena un massacro, che non è una rappresaglia, è un massacro, perché trucidare, fucilare 335 uomini innocenti, tra l'altro anche un ragazzino di 14 anni, che finiscono nelle liste di Kappler o perché sono ebrei, o perché sono stati renitenti alla leva, o perché sono nelle mani delle SS da mesi, nel carcere di Via Tasso, nel carcere di Regina Coeli, questa è la loro colpa. I loro corpi vengono ammassati, ammucchiati dopo il massacro. Tra l'altro ci sono dei racconti e delle testimonianze molto forti che descrivono che cosa accade durante quelle lunghissime ore, perché il massacro di 335 persone presuppone uno sforzo militare notevole. Soldati che non ce la fanno, si sentono male, Kappler ordina di sparare un colpo solo al cervelletto per evitare di perdere tempo e poi di ammassare i corpi perché non si possono spostare, quindi quelli che entrano dopo devono salire sul corpo dei compagni che sono stati uccisi e devono assistere allo scempio dei corpi, corpi che poi vengono ammassati perché le volte delle cave vengono minate e vengono fatte crollare sui corpi. Quando li ritroveranno nell'estate del 44, dopo l'arrivo degli alleati a Roma, ci sarà un lunghissimo lavoro da parte di un anatomopatologo, Attilio Ascarelli, per riconoscerli, in un processo dolorosissimo, tanto che nel mausoleo delle Ardeatine ci sono ancora degli ignoti, perché non è stato possibile riconoscerli. Oggi, grazie ad una ricerca che si avvale anche della tecnologia sul DNA, è stato possibile arrivare a ricostruire l'identità di queste vittime. Ecco, questa è una ferita profonda che resta non solo nella storia di Roma, ma nella storia d'Italia. Sono passati 80 anni da quel massacro e invece di ricordare insieme a quel massacro tutte le altre stragi che hanno insanguinato questo paese, che sono la cui responsabilità è direttamente delle truppe naziste o delle milizie fasciste, il nostro paese si interroga ancora e tende a fare polemiche, tende a mettere sotto processo sull'altare dell'opinione pubblica quella che è stata la resistenza, quelli che sono stati i partigiani combattenti, se fosse lecito, se fosse illecito, sia stato giusto o non giusto. Ecco, queste sono polemiche che infiammano ancora il paese, che se mi permetti l'espressione, avvelenano i pozzi di una democrazia. È giusto a dirlo, perché E mi ricorda molto l'atteggiamento tedesco verso il gruppo di Stauffenberg, no? Che per decenni è stato delegittimato finché non un presidente illuminato come Weizsäcker nell'85 ha ricordato la legittimità della resistenza tedesca, l'attentato di Stauffenberg a me ha sempre ricordato l'attentato di Via Rasella, di cui quando si passeggia per quella strada peraltro è toccante vedere ancora i segni, no, delle bombe, perché le pareti della via portano ancora i segni. Non so se casualmente, nel senso che non è stato volutamente restaurato. No, o meno. Volutamente, non volutamente. È stato mai restaurato, ci sono ancora i segni dei mitra, delle pallottole. Se permetti, solo quello che tu giustamente hai detto, quei fatti si inseriscono in dimensione europea, se non mondiale, no? Cioè, a me viene in mente un po' l'attentato a Heydrich della resistenza cecoslovacca del 41, no? Cioè, con la rappresaglia poi di Lidice, con la nazista. Cioè, è una delle pagine più chiare e più buie al contempo della storia mondiale, dove vediamo assimilati l'azione resistenziale, l'azione di non accettazione del dominio totalitario e la repressione che, diciamo, questi regimi già al loro non nel 41 ovviamente, ma nel 44 certamente, in una traiettoria diciamo verso il loro stesso baratro compiono, no? Cioè questa contro violenza fascista nazista che conosce più, che non conosce il quartiere, semmai l'ha conosciuta, no? Ovviamente. E, pertanto il tema dell'inserimento europeo, no? Cioè come tu vedi la resistenza italiana sul territorio italiano rispetto ad altre forme resistenziali, pensiamo a perché ovviamente la resistenza italiana è quella che viene dopo, no? Cioè abbiamo la resistance francese che viene molto prima, abbiamo la resistenza, la polacca, quella anche sovietica contro l'occupante nazista, abbiamo quella cecoslovacca appena ricordato. Come si inserisce il fenomeno italiano in un contesto più ampio? La resistenza è un fenomeno, la resistenza in Europa è un fenomeno complesso che ha dei modi e dei tempi diversi. Ovviamente hai citato il caso della resistenza francese, dei Maquis, a cui si ispirano, oppure i GAP vengono costituiti in Italia ispirandosi ai combattenti irregolari alla macchia, cioè combattere alla macchia, colpire e nascondersi è proprio una modalità della guerra di guerriglia clandestina, quindi, che ispira le formazioni gappiste che operano nelle città italiane. Noi arriviamo dopo rispetto ad altri paesi in Europa, rispetto alla resistenza francese, rispetto alla resistenza polacca dell'Armia Krajowa, che comunque è un'altra esperienza ancora, cioè parte di un esercito che si ribella a quella che è la presenza dell'occupante tedesco. La resistenza italiana è la resa dei conti finale di un fenomeno che è stato il fascismo non soltanto in Italia, ma anche che è dilagato, che noi abbiamo esportato anche in altri paesi, ed assume una dimensione ancora più importante proprio perché in Italia il fascismo ha avuto la sua origine. La dimensione come dire, femminile, no? Cioè non solo in questo lavoro, ma anche in altri tuoi lavori, ma anche in questo prominentemente viene fuori, no? Cioè anche uno all'interno della delegittimazione, è proprio una parola che la quale faccio fatica, cioè linguisticamente, no? C'è una doppia delegittimazione, no? Cioè quella femminile, degli attori femminili, no? Cioè, allora la mia domanda è quella, e viene molto bene fuori nel film di Cortellesi, per esempio, ultimamente, anche se è un po' melodrammatico, ma comunque è utile, no? Per aver ricordato la condizione femminile all'interno di comunque un cosmo maschile, di una resistenza comunque anche dominata da figure maschili, entro le quali però, a differenza dei militari, cioè dei regolari, che sono un corpo maschile, l'elemento femminile si fa avanti, si fa strada, si conquista i suoi spazi con tutte le difficoltà e viene poi di nuovo dopo il 45 ricacciato entro le mura domestiche, no? Cioè questa, penso per le attrici, per le protagoniste della resistenza italiana e non solo italiana ovviamente, deve essere stato una duplice pena, no? Cioè subire non solo l'emarginazione politica dopo il 45, ma anche l'emarginazione di gender, no? Allora, la resistenza per le donne è un valore aggiunto, perché la resistenza per le donne non è soltanto combattere contro l'occupante tedesco, contro le milizie fasciste, è una scelta di libertà, è una scelta di emancipazione. È uno strappo radicale con la società gerarchica, con il patriarcato, con quella società, quella cultura che il fascismo aveva ereditato dall'Italia fondata appunto sulle tradizioni patriarcali, per cui la donna doveva essere l'angelo del focolare, la madre di figli che dovevano andare a combattere nelle guerre di Mussolini, soggetti senza diritti, diritti che poi conquistano nel 46, e conquistano perché c'è l'esperienza storica della resistenza a cui le donne partecipano. Ora sono 35.000 le partigiane riconosciute combattenti, cioè quelle che hanno combattuto in armi nella resistenza, ed è un numero assolutamente a ribasso rispetto al numero reale di quelle che poi hanno combattuto in armi e senza armi, perché poi la resistenza non si fa soltanto, la guerra clandestina non si fa soltanto con le armi, c'è bisogno di una rete di informazioni, c'è bisogno di una rete logistica, c'è bisogno dei collegamenti, le donne erano il telegrafo, erano la cassetta dei medicinali, erano il cibo, erano il rifugio, erano tutto ciò che serve a una guerra clandestina per sopravvivere in un territorio. E senza le donne la resistenza non sarebbe stata possibile, perché fin dall'8 settembre, quando i primi reparti militari si tolgono la divisa e salgono in montagna, sono le donne a dare rifugio, a ospitare, a sfamare, a curare, a cercare di rendere la sopravvivenza di questi giovani, a renderla possibile. Ed è interessante la partecipazione delle donne. Tu dicevi che nel 45 c'è questa tendenza a rimandarle a casa. È esattamente ciò che accade. Non solo le donne si rimandano a casa, Marisa Ombra ha scritto un libro bellissimo, Libere Sempre, in cui dice: nel 45 finiva per noi ragazze la trasgressione. La trasgressione dai modelli comuni di donna, la trasgressione rispetto a quello che il regime ci aveva insegnato ad essere, l'angelo del focolare. Ebbene, noi quell'angelo volevamo che spegnesse quel focolare, volevamo discutere di matrimoni che si possono anche rompere con il divorzio se una relazione non funziona. Questo già nel 46 le donne lo fanno, prima ancora della legge che arriverà nel 70, poi ci sarà il referendum del 74, molto discusso. Discutevamo di aborto, di interruzione di gravidanza, discutevamo dei nostri diritti, del fatto di poter essere pienamente cittadine. E nel 46 noi ci siamo prese la storia. solo che poi ci siamo dovute scontrare con un paese dai fortissimi ritardi culturali, per cui essere stata una partigiana nell'Italia degli anni 50 significava essere giudicata come una donna di facili costumi, una ragazza che non aveva rispettato le gerarchie, essere additata. Ci sono tanti di questi esempi nelle memorie delle ex partigiane. Alcune vengono messe anche sotto processo. Io cito il caso di una partigiana molto famosa, Zelindaresca, nel libro, che non solo si fa il carcere per un delitto che non ha commesso, viene mandata in galera, poi si scoprirà che è innocente, intanto si fa 5 anni di carcere preventivo in attesa di giudizio e poi si fa anche il manicomio, perché il manicomio all'epoca veniva utilizzato come sanatorio, come struttura per sanatorio. Lei in carcere si era ammalata e quindi viene mandata nel manicomio criminale di Aversa, da Bologna, quindi si fa altri anni di manicomio, per poi essere scagionata da tutte le accuse. E quando torna al suo paese d'origine si sente dire, non è accolta come un'eroina, come una combattente, come una donna che ha contribuito a ridare libertà al proprio paese, non ha riconoscenza da parte del paese, viene additata come donna di facili costumi perché mette in piedi un'attività commerciale insieme alla sorella. Questa attività commerciale non va tanto bene e un giorno si sente dire da alcune signore: se invece di andare a far la partigiana avesse fatto la borsa nera, a quest'ora non morirebbe di fame. Sono tanti esempi, ma ce ne sono tanti altri anche nella stampa, lettere anonime di cittadini che scrivono a quotidiani, a rotocalchi, a settimanali, dicendo che le partigiane sono state donne di facili costumi, e ci sono sentenze della magistratura che lo dicono. Io ne cito una in particolare, una sentenza del 47 pronunciata dalla Cassazione, che doveva riesaminare il caso di un milite delle Brigate Nere accusato di aver fatto violentare sotto tortura una partigiana di 16 anni, giovanissima. Questo milite era stato condannato in primo grado dalla Corte d'Assise straordinaria di Reggio Emilia, poi c'era stato l'appello, insomma il caso finisce in Cassazione. La Cassazione scrive nero su bianco che la vittima non era stata vittima di violenza carnale, casomai della massima offesa all'onore e al pudore della donna, anche se, avendo vissuto in banda con altri partigiani, con altri compagni, la violenza sessuale sul suo corpo era una violenza di minor grado. Ecco, queste erano le sentenze che circolavano negli anni 40, negli anni 50, nei confronti di donne che avevano combattuto per la libertà del proprio paese e che tornavano doppiamente sconfitte. Nonostante questo, però, è grazie all'esperienza di quelle donne che hanno partecipato alla resistenza se noi abbiamo avuto l'Italia dei diritti, perché questo le donne, le costituenti lo sapevano benissimo, venivano da quell'esperienza storica. Quando si dice che la Costituzione non è antifascista, sono state le antifasciste e gli antifascisti a scriverla, la Costituzione. Il presidente dell'Assemblea Costituente era un certo Umberto Terracini, che era l'emblema della persecuzione del regime fascista. Quindi sono tutte prese di posizione che non danno, certo, non contribuiscono a conoscere in maniera adeguata la nostra storia, che però dobbiamo, ecco perché è importante sempre approfondire il passato, perché avere conoscenza di questi fatti ci aiuta anche a capire perché nel dibattito pubblico non circolano ancora queste formule. Allora, ci fai capire che, diciamo, anche nella resistenza le donne dovevano, come al solito, essere due volte più brave degli uomini, anche qui. Cioè, è sorprendente, a me ha sempre sorpreso moltissimo il fatto, perché quando si parla di lotte, di battaglie delle donne per i diritti civili, ci si riferisce sempre agli anni 70, giustamente, ma è dalla fine degli anni 40, quando le donne arrivano ad avere un ruolo pubblico importante, che si discute di questi temi in Parlamento. Se noi leggiamo gli atti della Consulta, Questo dibattito viene fuori, queste discutevano dell'abolizione dell'adulterio, del divorzio, dell'aborto, cioè già durante le fasi di scrittura della Costituzione e poi in Parlamento negli anni 50. Senza quel passaggio e quella fase, quello che è avvenuto negli anni 70 non sarebbe stato possibile. Questa è una tesi molto interessante, no? Perché sottolinea la longue durée, diciamo, di un movimento progressista che viene però a compiersi solo 30 anni dopo diciamo l'iniziazione, no, di questa liberazione. Si compie tra l'altro con fatica, perché sì, vorrei ricordare e viene anche messo in dubbio, no? Cioè, ancora oggi. Quando si fa, a proposito di anniversari, 74 saranno i 50 anni dal referendum abrogativo sul divorzio, c'è uno schieramento Democrazia Cristiana e Movimento Sociale che compone il fronte antidivorzista in questo paese, che per fortuna non ha avuto la meglio. Quanta colpa ha la sinistra in tutto ciò? Cioè, una domanda... Sulle colpe della sinistra scriverò un altro libro, sì, magari. No. Perché è tema da enciclopedia, no, questo. Certo. Ricordo solo, no, cioè, il famigerato discorso, cioè la parificazione, per certi versi, no, di Violante, tra i repubblichini e i partigiani, cioè... La quasi parificazione, cioè lì abbiamo ovviamente che poi si inserisce con forza in quel ventennio berlusconiano che fa di tutto per di nuovo smantellare l'eredità resistenziale, con appunto non so se è un atteggiamento naif da parte della sinistra o è l'incapacità culturale. Non credo nessuna delle due cose, credo che sia stata proprio una volontà politica in quel momento, quando Luciano Violante parla dei ragazzi di Salò, no? Nel suo discorso di insediamento da presidente della Camera, lo fa intenzionalmente perché si va verso una bicamerale. No? Nel 96 c'è questo discorso importante che viene fatto da Luciano Violante, perché bisogna accogliere in questa in questa discussione che dovrà poi dare la possibilità di riscrivere il testo costituzionale, il partito di Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini, che non ha ancora dichiarato il fascismo il male assoluto, lo farà qualche anno più tardi recandosi allo Yad Vashem a Gerusalemme e rompendo con una parte, insomma, vorrei far notare che... Certo, ecco, viene ostracizzato poi, no? Allora, se noi pensiamo che nel 93, quando ci sono le amministrative per Roma, e Fini si presenta, un elettore su tre vota il candidato della destra, Fini riceve il 47% dei consensi, e quando dichiara che il fascismo è il male assoluto, siamo qualche anno più tardi, arriva a sfiorare lo 0,4 dei consensi. Questo ci dice qualcosa rispetto all'eredità di quel partito, al fatto che nonostante i buoni propositi, chiamiamoli così, i tentativi di costruire una destra moderata e diciamo così conservatrice, bisogna fare i conti con più di un pezzo di un partito che quei conti non li vuole fare. Questo è un grande problema. Domanda finale da parte mia almeno, no? Poi vediamo, magari riusciamo anche a aprire il dibattito. Tu sei poi anche di fretta, se ho capito bene, per quella... cosa ti ha spinto a scrivere il libro? Cioè, abbiamo intuito, ma comunque straight from the horse's mouth, no? Cioè, vogliamo proprio saperlo da te. E su quali progetti stai lavorando? Beh, ci hai annunciato che scrivi un libro sulle colpe della sinistra, quello che ci sarebbe, puoi dire. Sarebbe un bestseller. Allora, intanto parto dalla fine. Sto scrivendo un nuovo libro per Einaudi che si intitola Caro Presidente. Rileggo la storia d'Italia, ma in un altro periodo, dal 1978 fino all'anno del Covid, attraverso le lettere degli italiani ai presidenti della Repubblica. È stata una lunghissima ricerca d'archivio all'archivio storico del Quirinale, dove sono conservate le lettere che cittadini e cittadine, anche tanti bambini, scrivono ai presidenti della Repubblica da sempre, materiale che viene dopo un po' abbandonato nei magazzini. Io qualche anno fa ho fatto un documentario per la RAI, ho scritto un documentario per la RAI che si intitola Caro Presidente, perché avevo ritrovato queste lettere e sono andata a ricercare gli autori di quelle lettere, gli autori e le autrici, li ho intervistati, li ho messi di fronte alla loro scrittura, ho cercato di capire come si può leggere la storia d'Italia, i traumi, i momenti difficili che il paese ha attraversato, a partire appunto dai giorni del sequestro e dell'assassinio di Moro fino all'anno del Covid, dal basso, cioè come si può rileggere la storia d'Italia attraverso l'esperienza diretta dei cittadini. Quindi c'è di tutto, si parla del terremoto in Irpinia, del terrorismo, dell'eversione, anche di momenti gioiosi che il paese ha attraversato. E come ho deciso di scrivere questo libro? Una bella domanda. Tanti anni fa, credo che la responsabilità sia stata di un certo Rosario Bentivegna, che ha avuto molti meriti per me, che l'ho conosciuto, con il quale ho avuto un rapporto d'amicizia che è durato tanti anni, anche un rapporto di collaborazione professionale. Mi sono occupata di riordinare le sue carte d'archivio, che sono state tutte digitalizzate dall'archivio storico del Senato e si possono liberamente consultare in rete, tra l'altro. È stato lui a farmi suonare il campanello d'allarme, perché ragionando con lui, riordinando le sue carte su quello che era stato l'emblema del processo alla Resistenza, mi sono chiesta se non ce ne fossero stati altri di casi, e allora ho iniziato una ricerca che poi è stato il mio lavoro di dottorato, è durato tanti anni, che mi ha portato a scavare in tanti archivi giudiziari, archivi storici. Questo è un libro che nasce nel 2003, quindi volevo in qualche modo restituire una voce ai senza voce, dare un minimo di giustizia, di riparazione a quei ragazzi e a quelle ragazze che tanti anni prima di me avevano combattuto per ridare la libertà al nostro paese. Ma volevo farlo fuori da qualsiasi tipo di retorica, e volevo anche interrogarmi su quelle che erano state le continuità però e le discontinuità rispetto all'esperienza del regime fascista, quindi come la Repubblica aveva accolto chi aveva partecipato alle fasi finali della Repubblica Sociale Italiana o comunque aveva avuto un'esperienza diretta nel regime, e quali fossero state le eredità della Resistenza nella Repubblica. Non so se ci sono riuscita, però il tentativo l'ho fatto. Cioè, io da lettore posso dire di sì, assolutamente. No, è un libro, peraltro, che può essere anche acquistato, no? Cioè, abbiamo davvero che lascerà il segno, penso, no? Cioè, lascerà il segno, a mio avviso, mio modesto avviso. Io aprirei a questo punto davvero al pubblico, spero che ci sono le curiosità vostre, che abbiate anche modo e coraggio di porre delle domande a Michela Ponzani. Se fosse così, vi pregherei di usare il microfono e magari chiedo alla collega. Sì. Ci sono delle mani alzate? C'è un uomo alzato, prego. Sì, è vero, tale mi riconosco, è vero. La domanda è questa, chiedo alla professoressa un giudizio estremamente sintetico. Può dirsi che l'Italia repubblicana, a livello di amministrazione pubblica, vuol dire amministrazione segnatamente della giustizia e dell'interno, ha avuto una vera, reale discontinuità, oppure, se vi è stata o può confermare, quella che fu definita un epocale fallimento nelle epurazioni? Grazie. Allora, le continuità hanno prevalso sulle discontinuità rispetto alla storia della magistratura. Questo io ho cercato di ricostruirlo anche nel mio libro, rispetto alle sentenze numerosissime di condanna che vengono emesse nei confronti di ex partigiani combattenti, non per fatti di sangue della fase insurrezionale o post-insurrezionale o non solo, ma per fatti relativi alla guerra di liberazione. Cioè c'è una classe dirigente, c'è una magistratura che ha fatto carriera durante il regime fascista, che applica in maniera ferrea quelli che sono i codici rimasti in vigore nell'Italia repubblicana. Mi riferisco al codice penale Rocco, per cui tutti i fatti relativi alla guerra di liberazione non potevano che essere dei reati comuni, penalmente perseguibili. L'errore politico però, non giuridico, è stato quello di non riconoscere i partigiani combattenti come membri effettivi delle forze armate, cioè averli equiparati a combattenti regolari, e aver utilizzato lo strumento dell'amnistia, che era uno strumento davvero ambiguo, perché era come se lo Stato dicesse: quei fatti sono reati, ma io rinuncio a punirli, invece di dire apertamente: quei fatti sono legittimi, anche se illegali, perché compiuti in un periodo in cui per la Repubblica Sociale le azioni di guerra partigiane erano azioni illegali. Però per una Repubblica che nasceva da quell'esperienza storica erano azioni legittime. Quindi sì, certamente c'è questo enorme problema della continuità, che è un problema che non riguarda però soltanto i partigiani e non soltanto gli anni 50, fino agli anni 60 ci sono gli ultimi processi ai partigiani combattenti, ma riguarda, ahimè, purtroppo anche i depistaggi, le trame occulte, che sono riferibili alle stragi di matrice neofascista in questo paese, per cui ancora oggi si aspetta una verità, oppure ai tanti morti ammazzati per i quali le famiglie aspettano ancora una verità che non è mai arrivata. Domanda di replica, volendo dare un nome e un cognome alla storia e ai fatti, lei direbbe dunque che da Guido Leto a D'Amato c'è un filo rosso di acciaio? Diciamo che viene proprio da pensarlo. Perché di fatto c'è un libro molto bello che ha scritto Benedetta Tobagi, pubblicato da Einaudi qualche settimana fa, che parla proprio di questo, dei depistaggi, delle manovre che hanno occultato le prove, mischiando il vero al falso, delle azioni, delle indagini inquinate da parte di esponenti della polizia, della magistratura, rispetto ad alcuni fatti di sangue, e mi riferisco ovviamente alla strage di Piazza Fontana, alla strage di Piazza della Loggia a Brescia, all'Italicus, o anche a fatti, diciamo così, a quelle cronache criminali, chiamiamole così, che hanno costituito un po' il coro di sottofondo tra le stragi di impianto neofascista e le azioni del terrorismo d'estrema sinistra. Quindi assolutamente sì, purtroppo sì. Beh, come vuole che le veda, hanno fatto dei brutti sogni a mano armata, cercavano di realizzare una rivoluzione richiamandosi al 1945, alla resistenza tradita, e sono stati giudicati come avventurieri, anarcoidi, irresponsabili e sanguinari dagli stessi che avevano fatto quella guerra di liberazione. Io mi ricordo quello che diceva Sasà Bentivegna, che negli anni 70 era stato fatto anche oggetto, era stato preso di mira dalle Brigate Rosse, perché era diventato negli anni 70 un dirigente sanitario importante e non aveva voluto dare spazio né ascolto ad alcuni brigatisti che lo avevano avvicinato, e ha rischiato anche la vita per questo. Non c'è niente di eroico nel voler uccidere a sangue freddo e nel voler togliere la vita a qualcuno quando si è in una repubblica democratica. Per fortuna la democrazia ha retto, quindi significa che la nostra democrazia è forte, ma è stata forte perché gli italiani sono stati forti. Pensiamo a quello che è successo dopo Piazza della Loggia a Brescia, dopo quel terribile attentato dinamitardo. Il paese ha risposto con una grande manifestazione silenziosa, pubblica, una manifestazione che tra l'altro era proprio nei giorni dell'anniversario della strage di Marzabotto, in quella stessa terra che aveva vissuto l'esperienza terribile delle stragi nazifasciste. Questo significa che il paese, il nostro paese, ha gli anticorpi per resistere sempre, e che purtroppo però viene sempre e continuamente messo a dura prova. Credo che sia uno dei traumi mai superati da questo paese. Io non a caso ho deciso di iniziare il mio nuovo libro dal sequestro e dall'assassinio di Aldo Moro. È uno dei traumi e delle ferite non superate che hanno segnato la memoria collettiva del paese. Se noi leggiamo le lettere che centinaia e centinaia di italiani, italiane, anche bambini, scrivono al presidente Leone durante i giorni del sequestro Moro, rimaniamo impressionati. Primo, perché non c'è la richiesta di un tributo di sangue. Sono i bambini a scrivere al presidente chiedendo che ci sia clemenza anche nei confronti dei brigatisti. E poi perché vediamo veramente un paese che ha la capacità di unirsi, purtroppo non ha la capacità di richiedere giustizia, perché in quei giorni vengono assassinati due ragazzi a Milano, è il 18 marzo del 1978, a Milano vengono assassinati da due esponenti dei NAR, i Nuclei Armati Rivoluzionari, che sono dei gruppi neofascisti, due ragazzi che frequentavano un centro sociale, il centro sociale Leon Cavallo. Vengono ammazzati ufficialmente, la versione ufficiale, perché l'inchiesta è stata archiviata dalla Procura di Milano, nonostante il caso sia stato più volte riaperto, ufficialmente vengono uccisi perché avevano scoperto un traffico di eroina in cui erano mischiati esponenti della versione milanese, ma in realtà vengono uccisi perché questi ragazzi abitavano a via Montenevoso, di fronte a quello che poi si scoprirà essere il covo delle BR, e probabilmente, non lo dico io ma lo dicono gli inquirenti, anche se poi il caso è stato chiuso per assenza di prove, avevano visto o sentito qualcosa che non dovevano vedere. La madre di uno di questi due ragazzi, Fausto Tinelli, ha scritto per anni ai presidenti del Consiglio, al Presidente della Repubblica, ancora nel 98, io ho ritrovato una lettera che scrisse al Presidente Scalfaro nel 98 concesse la grazia agli ultimi terroristi che erano ancora in carcere, per chiedere che il caso di suo figlio fosse risolto, che fosse fatta luce. E la giustizia a questa donna non gliel'ha data mai nessuno. Quindi per questo dico che è un paese incapace di chiedere giustizia. Grazie. Sì, buonasera. Due domande, per favore. Lei prima ha parlato di parlare in modo antiretorico della resistenza. Nel suo libro parla dei protocolli di Roma del dicembre del 44, e l'altra domanda, se a proposito delle trame occulte che le famiglie aspettano ancora una verità che non è mai arrivata, citando anche l'ottimo libro della dottoressa Tobagi, appunto, com'è possibile fare ciò se ci sono ancora i segreti di Stato fin dalla strage di Portella della Ginestra del 1° maggio del 47? Grazie. Allora, è possibile per gli storici, perché oggi abbiamo le carte a disposizione, non le abbiamo tutte, per fortuna queste carte, il libro della Tobagi nasce proprio da questo, dagli atti che sono stati desecretati dalla direttiva del governo Renzi, quindi oggi gli storici hanno a disposizione delle carte e abbiamo la possibilità di approfondire alcuni temi che sono rimasti per ora sullo sfondo, traumi che però sono ancora presenti nel nostro paese. Quindi il compito degli storici è quello di cercare di ristabilire la verità di volta in volta, arrivando a leggere anche la documentazione in maniera critica, con la consapevolezza che quello che noi abbiamo, i documenti e ciò che troviamo negli archivi, non possono dirci tutto, possono restituirci soltanto un piccolo frammento di verità, se così possiamo chiamarla, anche se quando si parla di storia usare il termine verità è sempre un terreno da sabbie mobili. Noi andiamo a ricostruire dei tasselli, andiamo ad approfondire e questo è possibile grazie alla documentazione, ma dobbiamo essere consapevoli, senza ingannare chi ci legge, che i documenti non possono dirci tutto. Però questo noi dobbiamo farlo, sia come storici che come cittadini. Dei protocolli di Roma no, non ho parlato nel mio libro, ma insomma io affronto diverse questioni giudiziarie rispetto alla stagione processuale più calda, che si apre dopo l'attentato a Togliatti nel luglio del 48, ma che inizia già con i primi processi che vengono celebrati davanti ai tribunali militari alleati. Ultima domanda, direi. Nel 46 i partigiani si rifugiarono nelle Langhe, e in contrasto con l'amnistia, lei cosa ne aveva? Potevano, se non fossero stati in qualche maniera convinti a lasciar perdere, avere una qualche prospettiva, questa amnistia magari non essere approvato o fatto in maniera differente? Allora, sull'amnistia Togliatti, c'è un dibattito e una discussione da sempre. L'amnistia è il primo atto con il quale la Repubblica accoglie come cittadini della nuova Repubblica anche quelli che per la Repubblica non hanno combattuto. Perché a un certo punto, ma arriva l'amnistia Togliatti, questo io tengo sempre a dirlo, quando l'epurazione ormai è già fallita. Non è l'amnistia Togliatti che porta il fallimento dell'epurazione. L'amnistia arriva a sanare una situazione, certo si può discutere, poteva essere fatta dopo, qualche anno dopo, come avviene in Francia per esempio, magari non scritta nel modo in cui viene formulata, ma se noi andiamo a guardare per esempio lo scambio di lettere tra Mauro Scoccimarro e Togliatti, questo è ben evidente. La formula che arriva a diventare decreto non è quella che inizialmente viene scritta dallo stesso Togliatti, che tra l'altro prevede anche un articolo per i partigiani che sono ancora in galera e addirittura per gli antifascisti che nel ventennio erano stati messi in galera, che sono ancora in galera nel 46, perché la magistratura non li fa uscire. C'è un caso clamoroso di un partigiano che era stato arrestato con l'accusa di fuoriuscitismo, perché era scappato in Francia, poi era stato di nuovo catturato. L'accusa di fuoriuscitismo era, secondo la magistratura italiana del dopoguerra, la dimostrazione dell'essere antinazionali, quindi di non aver combattuto per la propria patria. Eppure quell'imputato aveva combattuto certamente non per la patria fascista, ma per la patria antifascista. Però insomma, la Repubblica Democratica in galera, dalla galera avrebbe dovuto farlo uscire. Dicevo che l'amnistia Togliatti contiene un articolo, l'articolo 4, che riguarda anche i partigiani. Il problema è l'epurazione, che di fatto intenzionalmente già è fallita, è politicamente fallita, perché dalla galera sono già usciti esponenti importanti del vecchio regime. Tra l'altro, se noi guardiamo i numeri, vediamo come dopo soli 8 giorni escono di galera, dopo l'amnistia Togliatti, quasi 7.000 fascisti a fronte di 120-126 partigiani. Perché? Perché l'amnistia è formulata male, perché contiene il criterio delle sevizie particolarmente efferate. Che significa sevizia particolarmente efferata? Che per essere condannato per il reato di collaborazionismo io devo dimostrare di non aver compiuto una sevizia particolarmente efferata. E quindi lì si apre una casistica giuridica davvero impressionante, che se letta ci restituisce proprio l'idea di quale fosse anche la cultura giuridica della magistratura italiana del dopoguerra. Casi di partigiani passati sotto tortura o di partigiane violentate nelle caserme, nelle camere di tortura della Repubblica Sociale Italiana, che non subiscono, secondo la magistratura, sevizie particolarmente efferate, perché magari dopo una violenza sessuale possono continuare a generare dei figli e quindi il responsabile può godere dell'amnistia perché non ha compiuto una sevizia particolarmente efferata. L'aver usato quella terminologia dà alla magistratura la possibilità di interpretare in maniera estremamente discrezionale il codice penale. Questo è stato l'errore dell'amnistia Togliatti. Un'ultima domanda, poi dopo ci avviamo alla conclusione, perché so che la professoressa Ponzani ha un importante appuntamento anche con la televisione e noi piano piano ci avviamo alla conclusione, abbiamo anche qui il libro a disposizione e organizzeremo quanto prima magari un altro incontro, però questa sera dobbiamo piano piano, se vuoi Antonio, se è rapido. No, volevo solamente fare un piccolo commento sul libro. Io personalmente quando inizio la lettura, se mi viene il brivido dietro la spalla, vuol dire che il libro funziona, altrimenti lo finisco, però non mi resta impresso. Io volevo porre una domanda. La resistenza, sulla resistenza, e anche sottofondo del suo testo, sulla resistenza quasi ci si è vergognati di parlare della resistenza dopo l'entrata in vigore della Costituzione e per tutti gli anni 60. Forse c'è stato bisogno di un Presidente della Repubblica, Saragat, che mandava telegrammi, veniva chiamato a Napoli Peppino Telegram, no? Perché parlava sempre di resistenza e resistenza. Ecco, io per esempio ricordo che nel 55 un allora ministro della pubblica istruzione, Ermini, mandò la circolare perché bisognava ricordare il genetriaco di Marconi e non i 10 anni del 25 aprile del 45. Allora le chiedo, ma tutto questo, inserito anche, scusi, in quello che accade subito dopo la guerra con le manifestazioni operaie, ecco, tutto questo, da che cosa è dipeso? Perché per tanti anni la resistenza è stata un po' messa da parte? Diciamo che questo ha contribuito in parte a generare una narrazione antipartigiana nel paese o ad avvalorarla rispetto a quello che per esempio tanti cittadini, anche anonimi, scrivevano ai giornali o ai rotocalchi. Se noi leggiamo le lettere inviate a quotidiani, alla stampa, c'è proprio questo mito, questa narrazione del resistente visto come un delinquente, come un sanguinario, e paradossalmente una riabilitazione di quelli che invece si sono schierati per la Repubblica Sociale, che vengono intenzionalmente definiti come buoni padri di famiglia che in fondo in gioventù avevano soltanto obbedito agli ordini superiori. Questa è una narrazione che narrazione missina, di stampo missino, che negli anni 50 fa molta presa sull'opinione pubblica anche grazie alle penne di tanti giornalisti, di tanti, chiamiamoli, ben pensanti moderati che contribuiscono a avvalorare questa tesi, però c'è una intenzionalità politica nel voler dimenticare o non voler raccontare la resistenza per quello che è stato, perlomeno fino a Saragat, fino alla Repubblica nata dalla resistenza, per capirci, perché siamo negli anni caldi della guerra fredda, siamo in pieno conflitto ideologico, per cui bisogna reprimere in tutti i modi quella che è stata l'esperienza storica di una parte consistente della resistenza. Mi riferisco alla resistenza comunista. Di fatto noi sappiamo oggi che la resistenza non è stata tutta comunista, che ci sono state tante componenti all'interno del movimento partigiano, ma di fatto i comunisti, perché avevano subito più di tutti le persecuzioni, perché avevano saputo reggere con un'organizzazione armata, avevano incarnato la resistenza armata e quindi vengono presi di mira nel dopoguerra in un clima di effervescenza ideologica che porta molti di loro sotto processo. Quindi questa è una delle ragioni, diciamo, è anche la ragione per la quale non si fa luce sulla mancata giustizia rispetto ai criminali di guerra nazisti in fuga. Prima si citava la Via dei Topi, c'è un caso emblematico che fa notizia non negli anni 60 ma nel 77, la fuga di Kappler, per la quale noi ancora aspettiamo che ci sia chiarezza. Di fatto nessuno ha mai dato spiegazioni su come sia stato possibile che il criminale di guerra condannato per la strage delle Fosse Ardeatine sparisse così dall'ospedale militare del Celio. Un'ultima cosa, informata sui risarcimenti sull'avvocatura dello Stato che sta facendo diminuire il fondo dato da Draghi per le famiglie vittime dei nazisti? Questa cosa l'ho sentita, ho sentito anche del centenario matteottiano che rischia di non essere celebrato perché pare che manchino fondi dalla presidenza del Consiglio. Ecco, grazie. No, Valeria ci ha giustamente ricordato che i tempi sono stretti, perciò dobbiamo davvero chiudere qui, ma vi ringrazio tantissimo delle domande, delle buone domande e soprattutto delle ottime risposte. E buonasera a tutti. Grazie di cuore Michela, grazie di cuore. Grazie perché è stata una bellissima serata, interessantissima, e complimenti alla nostra Michela Ponzani.